attenzione a Ruggero, ci siete? Cosa diavolo vogliono, boh. Io, ci dà il yo-yo. Cosa vuoi che voglia? Dati la di yo-yo. Volevo che faccia qualche visita di controllo, senz'altro. Per la disabilità, cosa la canzone so io? L'avevo fatto due, hai capito? E tutte e due volte mi hanno dato il 67%, quindi non vorrei che li venisse a mettere questo di togliermi il frutto di validità, perché allora penso caso io. Sì, allora vai, fammi togliere le validità che faccio. Ma di chi è di cosa? Della tua compagna la validità? Ah no, la mia è stata a me, mi voglio. Come che nel tempo sei guarito, magari? Magari sì. Tu sei guarito, sei stato bello tranquillo. E invece c'è noi me lo vuoi tenere sta roba. Giulia, sai cosa vuoi fare? Per carità, che gente! Cosa c'è che apre? Mio figlio. Sono anche senza macchina perché ho voluto portare che perdeva acqua dalla distribuzione, deve essere qualche tappo di fusione questo. Ho detto, visto che ce l'ha in mano, farle anche la distribuzione. Io non ce l'ho una voglia di mettermi a giustare, e poi non ho tempo di niente, perché ti invidia un manzano minimo a punirle in mano. Non ho tempo di niente, quindi ho portato a aggiustare. Speriamo che me la faccia per domani, anche le due balle piene. La distribuzione c'è le cambiare le cinghie, eccetera, eccetera, tutto collegato assieme, capito? Poi deve cambiare l'acqua, il radiatore, l'olio, una bella revisionata. La macchina non ti crea problemi. No, lo zoetto non lo tocca. L'olio lo metto solo io e boh. Deve fare la... Gli ho chiesto se è vecchia distribuzione, si cambia, perché io cammino molto. E va a distribuzione e controllami questo cazzo la perdita, l'olio lui non lo tocca. L'italiano me lo faccio io. Non lo tocca il prodotto, perché so cosa ci sto mettendo. E metto un olio di qualità e tutto, metto il bardal io. Che costa un po', però i risultati sono tanti. Adesso mi ho già avvolto. Mi faccio fare questa roba qua. Poi all'altro mese mi faccio fare la distribuzione, capito? No, la distribuzione no, siccome è molto vecchia e non mi fido più, mi faccio fare la frizione e io sono a posto. Vuoi fare anche la frizione, dato che ci sei, almeno sei tranquillo. Non mi fido più, no. Non è stata mai cambiata quella pressione, è originale. Non mi fido più. Non la faccio fare bene. A me non ho una macchina a posto, ma io la controllo sempre, poi non sono di quelli, sono un po' pignolo, capito? Io ho capito che sei pignolo. Una volta che te la fai tu sei più tranquillo. Quello per fare dagli altri non si sa, capito cosa ci metto, cosa non ci metto. L'ho portato da una persona tranquilla, se no io non do la macchina in mano a nessuno, eh. A nessuno la do in mano. Deve essere tranquillo, deve essere, se no macchina in mano non te ne do. Sì, vabbè, a parte la macchina non la puoi dare. Aspettare a nessuno, se la usi tu. Con limite meccanico, la puoi trovarla. E basta. Ce ne sono pochi gente strana a questo periodo, capito? Basta o niente, te ne brincano nel naso e che buonanotte. No, non porto la mia, capito? Sono una persona professionista, quando va al ritiro mi porto il giro, mi controllo tutta la macchina a vedere se ci ha combinato qualche cosa, compreso? Sono un po' particolare, sono. Quindi facevo anch'io la con Mottorino. Quando lo potevo aggiustare, controllavo se era tutto a posto, o se aveva toccato qualche cosa, capito? Adesso, con questa storia, qui ci sono pochi soldi, capace che pagano i pezzi nuovi, per vendere se adesso ti mettono i vecchi, che manco te ne accorgi, quindi bisogna controllare bene. Segnali, i pezzi all'esterno, in modo che sai che sono i tuoi. Non abituo subito io cosa tu capo cosa no. Poi lo senti lo scandalo. Io ti faccio lo scandalo, così no. Non ti vorrò più, no, c'è una persona morta per me. Se mi fa una cosa del genere, poi hai perso. Così bisogna fare, è l'unico modo. Certo. Adesso aspettiamo, quando vengono tirati io c'avevo la panna della ditta, c'è la panna ieri, per fare le comicizie, per fare le cose, andare al ghero, a fare. Dopo il panchino della ditta facevo. Ho usato quella ibride. Quando c'è così una tosta che la usi bene la macchina, quindi o furgone quello che è, quindi già si fida. Modestamente me la cavicchio bene con la macchina, modestamente. Vabbè, meglio così. Già va bene, non è così. La voglia. Una volta che c'hai la macchina bene, te la lascia anche una settimana, non è quello il problema. Già si fida. No, vabbè, io c'è la macchina dell'azienda, non me la può dare. È a noleggio poi, capito? L'altro giorno nel freddo a Torrente della Lira era di tutta una dirata. Sapete che bellina mi l'hanno la panda, va bene me. Vabbè, ci attirano quelle macchine lì, questo non è una truffa, capito? Ci attirano la voglia. Un pezzo c'è più di 150 la tirata, andami, non si usa, per essere un motorino piccolo, per essere un motorino piccolino a tre cilindri, ibrido, cioè, cattivella è la signorina, molto cattivella, cioè, non è neanche, mi sembra che sia 1100, mi pare, 1100 ibrida. Motorino cammina, c'ha i suoi cavalli, piccolino ma sincero. Piccolo ma sincero il motore, quanto faceva i 120, 130? Ma cosa, devo arrivare più di 150, la devo arrivare. Che cazzo? E hanno trovato le cose, i carabinieri, ha girato le palle. Sì, la sala di Anghero a 4 corsi, già limiti a 110, vabbè stava andando un po' di più, però ti dico la verità, è davvero, merece un abbate, è una principale, è un po', no, ma poi ho mollato, ero sempre a 110, stavo tenendo sempre la velocità giusta, gli ho fatto un pezzo per vedere quanto andava, cazzo, andami! Quando cammina la cosa cammina, poi sei anche confortevole, come se vivi, sembra che sei seduto nel divano guidando. Ciao, cosa c'è Gabriele? Ma che è vera e poca, capito? E quindi finché non arrivo a 5, 6 anni, 7 anni, allora non ti tocca per niente. Anzi, diventa curioso, voglio sapere come si usa l'apparecchio, vedrai che te lo darà lui qualche giorno. La famiglia, sei pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto? Cosa vuoi pronto? La minestra. Io ero quando era piccola, c'erano 7-8 anni, si è acceso le FT 250, ha acceso, l'ha accordato, tutto da sola ha fatto, c'era tre manopole quell'apparecchio lì, e si è messo a parlare all'apparecchio, io ero a casa di Battistino, di Giaguaro, mi sento questo segnale forte, gli dico chi è? Sono Giovanna Coca-Cola, mi ha detto. E tu cosa stai usando, Giovanna? Io sto usando le FT 250, come fai tu, mi ha detto. Spero di tutto, mi ha detto tutta quella testa, gli ho detto. Ah, vai, poverina, la facci. Guarda che prima bisogna, è un apparecchio a valvole, prima bisognava farlo scaldare almeno 10 minuti in 4 ore, poi potevi tranquillamente modulare, però prima di fare quello dovevi girare due manopole e guardare lo switcher, capito? Una volta che guardavi lo switcher poi dovevi schiacciare girare un pulsante e ti dava il fischio della cordatura. In pratica con le altre due manopole, play e load, accordavi la potenza, capito? Fino ad arrivare al massimo che tirava intorno ai 100-120, una cosa del genere. E che fine ha fatto con l'apparecchio? L'ha venduto molti anni fa? Sì, l'ho tenuto un po' di tempo, 3-4 anni, poi l'avevo venduto, capito? Anche l'escopo l'ho usato, quando è venuto a casa mi ha detto, cioè, questo apparecchio, ho detto, questo apparecchio, l'ho comprato, gli ho detto. Guarda dietro, gli avevo messo, visti lei, quei portatili che vendeva la UPI, c'era quell'adesivo di omologazione, gli avevo messo quello dietro. Questa forma è questo apparecchio, c'è scritto che è omologato quando non lo è. Ma io l'ho comprato così, gli ho detto. E funziona, certo che funziona, ma che dico, provatelo. Io ho detto, non disturbo, neanche la televisione. L'ha provato e... aspetta, dice, funziona bene, mi ha detto. E meno male non mi ha segnato niente, non me l'ha manco sequestrato. Figurati. Chiappa. Altri tempi erano, cazzo, ma poco gusto malarugge questa cosa, ma serve la valvola modificata, ci avete? Era tutta la valvola quell'apparecchio, tutto, c'erano valvole piccole, le ultime due erano grosse, quanto quelle del BB 131, capito? Quelle erano le valvole finali, ma si scaldava inverno, sembrava un forno a microonde, Maria, acciucciava, la verità si dica. Chiappa. Ma sai cos'è il problema? È trovare le valvole adesso, ce n'ho uno così. Sto pensando che il mio, come si dice, il mio BB 131 ha perso poco poco, secondo me. Ce ne ho valvole, ne ho 4-5 io, se non mi ricordo male, alcune avevo regalate, se ne sono rimaste 2 o 3, sono rimaste di valvole, e mi bucio un 31. Ma ne hai valvole tu di quell'ignare lì? Di quale? Di quello che c'ho io piccolino, la mia americana, c'è dentro l'americana la valvola. Dovrebbe avere la pedina proiversa. E lo sai che mi hanno detto che c'era la valvola americana pure quello. A me c'era montata la valvola americana, monta. Infatti 120 watt te la correndo te la. Capito? Invece il mio buccio intorno, sai, tende a salire, poi dopo un po' di tempo che la usi, di solito tende a scendere leggermente di watt. Un pochettino abbia calato un po', ma la vende Fusaro quelle valvole o no? Non è sì che ce li ha perché come la potiruta è antugosa, io ho un po' di paura per toccare, non si sa mai più una cosa che non finì più, perché se sono cariche condensatori di cudino e chiama e decino la mara, magari un giorno lo vediamo assieme, eh? Vabbè, non c'è problema. Ce l'ho presa la scorsa un giorno io, da condensatore. Mi ha seccato il braccio, mi ha seccato questo. Ti stavo dicendo, allora lo vediamo, dai, un giorno, perché non sono molto convinto che sia al 100% come era una volta, mi capisco. Non sono molto convinto. Vabbè, tanto deve tutto bisogno di saldare il pezzo che c'è agganciato alla dove c'è il fusibile. Devi saldare quello, togliere come si chiama il cappuccetto. Poi togliere la valvola e a posto di quella ci metti l'altra e poi risaldi come si chiama, almeno con la valvola nuova ti dà di più, meno che non sia il condensatore mezzo esaurito, allora glielo cambi, tanto ormai si usano i condensatori piccoli, i condensatori grossi come una volta non si usano più. Ma il 131 quanto spinge massimo? 120, io sono finito a farla arrivare. 120 da M? Ehi, aspetta che mi ha fatto alla porta. Bisogna vederlo insieme. Bisogna vedere se in AM quanto ti dà? 80-90 watt. Antonello, mi senti? Hola. E cosa fai? Cosa c'hai? Avanti! Sto come mi alzi la birra! Oh yeah! E cos'è? Binduari! Sei mio nipote! Il figlio di Giovanna! Ma hai bevuto la birra? Magari la birra! Non come mi alzi! Oh yeah! Anda a me! Oh yeah! Mamma mia! Magari che è rotelli. Cara che è rotelli. Antonio! Avanti, care! Antonio! E cosa vuoi? Una birra, me la offri! Casseddu! Sì, sono di Casseddu! Ah, di Casseddu, sì! Sì! E cosa fai? Ma la ponte vai! Cos'è? Cazzo, che cos'è? Cuscimini a dondare. Ecco, mi piace la birra, e a te? Ti piace la birra, ti piace? Sì. Una massa di nevaria. Dai. Coca-Cola. Antone, ma tu sei? No, non ho parlato io ancora. Sto facendo un lavoretto. Un po' tardi, già riprendo dopo. Magari facciamo... No, Daniele. Daniele, aga, Danielito. Tu c'è l'altro sotto, non ho capito chi era, boh. Ne ha dato quelle uno, allora aspetta che attacco un attimo le cose, se lo faccio funzionare. Io uso il ventilatore come antenna, tu? Cosa hai tu, antenna? Il ventilatore. Che sei tu? I ladri. Ah. Tu cosa usi come antenna? Usi tu il ventilatore? L'antenna che ho io. Tu vuoi la bernacchia, a te va a seguire un buon brate, vabbè. C'è tu cavalieri. Chi è che grida? E tu? E avanti. Ehi, ciao, buonasera. Ebbene, ascoltando, sì. Stavo ascoltando, stavo e... Ho detto, va, adesso gli rispondo. Perché... Stavo per uscire, capito? Stavo per uscire a piedi, perché sono senza macchina. Che mi dà di un'officina, vai alla chiesina. Male ci sento tu. Allora è molto basso che troppo cupo non si capisce niente cosa dici. Allora, mi senti ora? Così va meglio? Abbasso, abbasso ancora. Così va bene? Adesso è peggio. Forse sta saturando la tua radio. Aspetta che abbasso un po' di watt. Gira il pomello, giro, 2 secondi. Perché devo rimemorizzarla sta radio. Aspetta che abbasso un po' di forza e c'ho troppi watt. Non si capisce niente, adesso. Non si capisce niente. Ma un po' meglio, Gio Mari. E adesso va più bene, vai. Perfetto, perfetto, riesco a capire abbastanza bene, vai. Ho dovuto abbassare potenza perché avevo la potenza normale aperta dall'apparecchio, ma ho dovuto mettere a 3 watt, dai. Neanche, 1 watt, 2 watt e mezzo, perché siamo troppo vicini di cui la bomba, capito? Perché siamo vicini, capito? Siamo vicini, per cui se più alto è più male ci senti, se più basso è magari va meno, a me arrivi male, magari più lontano arrivi bene, capito? Però essendo troppo vicini come siamo, adesso riesco a capire, prima non si capiva niente, capito? Tutto lì. Il problema è che siamo troppo vicini. Cosa stai usando, la G-Master? E allora, è sempre la stessa antenna, accade chi la cambia più, ormai. Quando le scende, boh, è finito tutto. Già non credo via, roba di geniale biglia. C'è la capitura mia ai nobbi, la tua città, si vedono le punte delle antenne sul tetto. Cioè, si vedono le antenne, si vedono, si incrociano proprio. Ma infatti, e per cui adesso con l'antenna lì si stanno scende. Uso l'apparecchio, quando le scende non attacco più, non lo tutto e tirato giù in un guasoletto, e lui se ne fa, tanto non mette nessuno, non fare più male, non c'è anche più voglia da parte mia, non c'è più voglia, così io certe volte l'accendo, magari sono cannugliato, allora l'accendo, però non c'è nessuno, allora spengo. Se ci fosse altro magari gente, allora sarebbe stato ideale, però qualche volta qualcuno già entra, però cosa, però ormai la 27 mi sembra che sia già finita. Capo, no, già sta entrando gente la sera. La sera ieri eravamo in un bel po', La sera a certa ora, c'era anche Claudio ieri. Ma io vi ho acceso adesso, proprio così, ho acceso adesso c'è qualcuno. Ma così, mamma, non è che mi va tanto, guardi tanto. Ogni tanto va così a cento, ma non viene voglia nemmeno a chiacchierare, è tutto lì a tu. Ho finito quel tempo, cosa vuoi fare? Purtroppo, tu sei giovane ancora, per cui la voglia senz'altro c'è. Ma io ho una certa età, accendo certe volte, ma ascolto, ma no, anche se c'è gente non entro, non mi fa, ecco, non riesco più a chiacchierare, capito? I tempi sono un po' cambiati, sono un pochettino cambiati i tempi, vabbè, e cosa vuoi fare? Adesso mi sto preparando a uscire un po', mamma mia. Se pigliamo un dramma o no, va? Sono tutto rincoglionito qua. Perché sono a casa già da ieri, sono a casa perché non c'ho neanche la macchina, sono in officina. Ma è normale, ragazzi. Speriamo che domani me la dia, perché sennò comincia a scattare fuoco, domani. Domani comincia già a scattare fuoco, Io sono c'era, infatti stamattina ieri sono passato e non c'era la macchina, siccome io stamattina vado là e già lo sai dove, verso le 8 meno 10 o quell'ora all'apertura vado, capito? Vado presto e non ho visto la macchina, che passava, deve essere che sta lavorando Antonio, invece qua sai. Piano ce l'ha messa a posto, capito? Oggi magari fa una cosa e domani poi fa l'altra. E purtroppo la macchina è così, la usi e per cui c'è sempre la corruzione, capito? Anche la via perde l'acqua, è liquido. Ma non sanno, capito? Mettendo il liquido e come la perdevo. Sono andato una litasa, l'ha controllato, me l'ha fatto vedere lì, c'era tutto il radiatore, tutto ruggiroso al fianco, e perdeva da quella. Ho detto allora, buttare via tutto e mettermelo nuovo, mi ha messo nuovo, e adesso sono tranquillo, per cui è perfetto adesso, capito? Così che adesso io ce l'ho perfetto, e così può fare la tua. Nel senso, oggi fa una cosa e domani te ne fa un'altra, con la camera, quando ci sono i già, capito? E per cui te lo porti a mettere a posto a tu. Capo. Adesso la. Adesso sto facendo questa riparazioncina, poi dico, fammi il preventivo, mi fa la pressione. E mi posso fare pure una pressione, mi posso fare. Però non so cosa ha fatto, ma fatto fare lui la pressione. Vado, piglio l'appuntamento da un altro amico mio, gli dico, quando è il giorno che te la portare? Sotto il giorno, tac, me la porto qua. Ed è finita in Kiwi. perché a me la sono tranquillo pure io. La macchina serve, la macchina serve al tuo, e per cui non più altra mettere a posto, vai. L'importante è che stai lavorando, e per cui hai la possibilità di metterti la posta tranquillo. Va bene, tu vai, hanno solo che sta venendo gente. Ti saluto, vai. Buon procedimento. Mamma, c'è un bambino, lo sento ogni tanto. Ci sentiamo a tu, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao, ciao.